pastore, odore di marcio nel potere, odore di favelas nel cortile, odore di sangue nel grembiule, odore di sudore nel lavoro, odore di orfano all'asilo, odore di fumo nello sballo, odore di Cristo nel barbone. Profumo di vino dalla terra, profumo di miele dalla rupe, profumo di grazia nell'errore, profumo d'amore nel mio cuore, profumo d'incenso sopra il monte, profumo di sale nel deserto, profumo di crisma nel deserto.